E penso che si possa adesso dare inizio alla discussione. Io pregherei i relatori di venire al tavolo della Presidenza e potremmo seguire, se credete, un ordine progressivo, anche se non c'è una rigidità assoluta, ma sarebbe bene cominciare dalla relazione del professor Falsini. Se c'è qualcuno che ha domande o... Non ci sono domande. Prego. Prego, il professor Quacquarelli. Io sarei sempre calmo. Non so, il microfono... Tutto al Concilio Vaticano II. Quindi tutto ciò che riguarda la liturgia, la volgarizzazione della liturgia al Concilio Vaticano II. Sei molto cauto perché c'è tutta una tradizione nel 600, nel 700, ma sino a Rosmini, che si voleva che la liturgia fosse capita dal popolo. Ricordo che ad Altamura in Puglia, nel 1680, ci fu la traduzione della messa in italiano, tutta la traduzione, e che il popolo rispondeva con quella lingua sua, che poi era tradotta anche in dialetto, che il popolo traduceva in dialetto. Con la rivoluzione francese altrettanto, nel periodo della restaurazione, così c'era una rivendicazione del popolo a parlare la lingua sua per la partecipazione ai misteri. E questo è un dato di fatto che arriva sino ad oggi. La Chiesa, non che vietasse, cercava un po' di frenare, altrimenti ognuno si esprimeva a modo suo e la lingua dei misteri è una lingua diversa da quella che vuole il popolo. Allora c'era da una parte la Chiesa che infrenava e dall'altra parte c'era il popolo che voleva la sua lingua. La prima piaga della Chiesa cui parla Rosmini è proprio questo, che vuole la comprensione della lingua liturgica da parte anche del popolo. Quindi c'è stato sempre questo binario e non si incontravano l'uno in un modo, l'altro in un altro. Col Concilio Vaticano II da una parte si è voluto una cosa, l'altra un'altra, e il Concilio Vaticano II si è trovato ad affermare la lingua della Chiesa, la lingua latina, poi praticamente è sfuggendo di mano la lingua, diciamo, latina, la lingua classica propria della liturgia, c'è stato uno sbandamento. E attualmente c'è uno sbandamento liturgico che è molto grave e non so dove potrà finire. Comunque c'è sempre un iter e questo iter si vedrà. Cioè che non è solo dal Concilio Vaticano II è venuta la necessità della lingua parlata dal popolo, ma è stato il popolo stesso che l'ha. Prego. Subito? Aspetta, qualche domanda. Come crede bene? Preferisce rispondere domanda a domanda. Ringrazio il professore, ma ho accennato nella mia relazione, perché non ho fatto la storia io, che vi erano state questi tentativi di traduzione, cioè abbiamo fatto fin dal secolo XIII, oltre che poi i Messalini, e ci fu anche quel freno, e io accennavo alla proibizione della traduzione del Messale, soprattutto del Corano romano, per motivazioni chiare di ordine dottrinale, per il pericolo che poteva suscitare nel popolo cristiano. Quindi il Concilio, direi, si è trovato a un certo punto nella necessità di rispondere a queste esigenze, che ormai erano già mature, ma già lei ha visto che nel 56 Pio XII bloccava in modo piuttosto deciso le richieste che vennero anche da quel famoso congresso internazionale di 1500 persone ad Assisi nel 56, che io ero presente proprio ancora giovane. e che e io nella mia relazione ho detto che era quasi che una diga che si è aperta all'improvviso e ha invaso, detto, quindi, perché aveva frenato da Lutero in poi. Già il Concilio di Trento, lo studio di Padre Schmidt, ha dimostrato che intendeva venire incontro, ma le richieste erano state motivate da rivendicazioni dottrinali, come ho detto prima, perché ritenevano invalida la celebrazione, perché non era espressione di fede, e quindi c'è stato questo blocco, questo fermo. E il Concilio oggi ha aperto la diga, e direi anche con grande sofferenza. E poi la richiesta è stata tale che si è andati avanti, ma io non direi che è sfuggito di mano, almeno da come mi risulta. Avevo fatto questa ricerca, che è stata piuttosto rapida, ma anche nel cammino, ma tutto è stato seguito con molta attenzione. È stato progressiva l'abbandono del latino, e non c'è stato nessuna forzatura dall'esterno, richieste dagli episcopati e concessione della Santa Sede. Tutto è avvenuto in un modo molto, molto ordinato, vorrei dire, ma forse anche imprevisto, come quello del canone romano. Io ero nella commissione conciliare come verbalista, e ricordo che quando venne la concessione del canone romano anche mi sono rimasto meravigliato, perché non era questo nell'intenzione diretta del Concilio, ma già quel relatore, Monsignore Enciso Viana, che era arcivescovo di Maiorca, disse: ma non possiamo noi bloccare quello che domani la Santa Sede potrà concedere, quindi non si prevedeva così imminente. Ora ho detto sì, che è sfuggito tutto, noi perdendo il latino abbiamo perduto questo patrimonio artistico, musicale, di canti, eccetera. Ma anche perché c'è stata una reazione tale che non ha favorito la composizione di nuove melodie, di nuovi canti. Ma non vedi che i vecchi musicisti si sono asserragliati, hanno fatto proprio bocca muta e si sono opposti all'opposizione. E è venuta questa fioritura improvvisa, ma lei, il professore, mi insegna che dopo un concilio di questo genere non è possibile che abbandonando un patrimonio del patto si possa costruire all'improvviso. Siamo agli inizi di una nuova, e poi qua era una lingua unica. Ora ogni nazione deve costruire, comporre anche le sue melodie. Perché poi non c'è stata nessuna, da parte dell'autore, nessuna indicazione di abbandonare i canti in latino, anzi, tante concessioni. È sfuggita di mano, dire, sul piano pratico, concreto, celebrativo, ma non da parte, io non voglio difendere nessuna autorità, sono stato abbastanza critico, ma visto perché nelle traduzioni purtroppo non c'è stata questa responsabilità seria, anche nel condurre avanti il lavoro, questa discontinuità nei gruppi, nei criteri, eccetera, perché è venuto in una forma un po' caotica, ma non direi sfuggito di mano. No, replica del professor Coccarelli? Volevo dire, sì, in teoria, in pratica, quando ho fatto il guai, ha avuto questo, il prete della questione, e nessuno ha sì, sì, sì. E allora, quello che è il principio, che ogni uno deve saper tradurre il latino che viene dalla terra, che è la lingua, che è la lingua, che è la lingua, che è la lingua, che è la lingua, che sì, sì, sì, sì, sì. Cioè, è sfuggito in questo senso, che non riesce più. Però la lingua, vabbè. Sì. E io ho citato la relazione anche il voto proprio di Veterum Sapienza del 62, ma lui stabiliva che gli studi teologici e si facessero ancora in latino, che i sacerdoti studiassero il latino, ma che è un discorso diverso dalla celebrazione, quasi va in vista del popolo. Questo è un problema interno alla Chiesa, nella sua struttura, non ha saputo imporsi, ma io distinguerei le due cose. perché il concilio dice che nelle celebrazioni con il popolo, con partecipazione di popolo, perché singolarmente non è detto che uno debba, anzi, che poi, sì, gli episcopati hanno concesso anche questo, ma là dove c'è partecipazione di popolo, un gruppo di fedeli, specialmente nei giorni festivi, si usi la lingua parlata, la lingua volgare, in Italia la lingua italiana, ma non è andato oltre, e su questa lì siamo mossi. Se poi, a margine, gli studi teologici sono stati abbandonati, i preti non studiano più latino, non comprendono più latino, eliminato anche, direi, quella possibilità, questo non l'ho detto io, che nei libri liturgici, tradotti nelle varie lingue, comportasse anche a fianco il testo latino. Questo è stato, io, non c'è nessuna disposizione, io ho seguito e ho domandato anche, è che venivano fuori dei testi impossibili a maneggiarsi, quindi per difficoltà pratiche, però li mette accanto il latino, se uno non sa latino che serve a un certo punto, sparisce. Eh? Un attimo, sì. Insomma, c'è il rischio di scompaia la base, scompaia la fonte. Sì, che scompaia la fonte, ho detto, noi abbiamo cioè, la fonte rimane. Ho letto male. Cioè, io distinguerei un doppio livello di traduzione, no? Il collega Menestrino parlava di tradurre col cuore, sì, vabbè, ma a livello personale, a livello privato anche. Ma nel caso di testi dogmatici, di testi che hanno un'importanza sacramentale, diciamo. Sì. Cioè, insomma, occorre che ci sia, certo. Anche gli antichi conservavano gli oracoli nella loro lingua, insomma, per conservarli così, che è un particolare valore. Che i preti non conoscono più il latino è un fatto gravissimo, che vuol dire che affideranno a noi laici, noi che coltiviamo latino e greco, la conservazione della tradizione, diciamo. C'è un'iscrizione a parlare del professor Boff. Boff, sì, io volevo fare un intervento per il professore Guggerotti, non so se devo anticiparlo poi o ritorno dopo, allora, però ora ero stato direttamente provocato da questo. Io ho l'impressione che quando si fanno i discorsi che ora sono stati accennati lascino un po' troppo sullo sfondo quello che è il fondamento di tutto. È verissimo, professore, che noi di solito mitizziamo il Concilio Vaticano. Dal Concilio Vaticano è cominciato il mondo, eccetera, eccetera. Sono forme letterarie che dobbiamo prendere per quello che valgono. Però credo che ci sia qualcosa di molto più profondo. Tutto quello che solitamente è dichiarato come una esplosione incontenuta, come, che so io, un declino, come una caduta, come un disordine, come un caos intervenuto. Generalmente, credo, è interpretato così perché non si colgono quali sono le ragioni profonde di quello che è accaduto. In verità, il Concilio Vaticano II non ha affrontato il problema di una traduzione, neppure di un passaggio dalla lingua latina alla lingua volgare. Prima di tutto ha messo veramente, più o meno consapevolmente e non troppo consapevolmente, ha messo a giorno una visione teologica profondamente nuova. Quello che è stato messo in crisi è la visione tradizionale, moderna, della teologia cattolica e particolarmente quella che si era fissata a partire dal Vaticano I e non nel Vaticano I, ma in seguito per il fraintendimento o l'irrigidimento dello stesso Vaticano I. Lei ha citato appunto il documento del 62 di Papa Giovanni. Ma è un documento folle, professore. Perché? Perché ripeteva, con tutto rispetto per Papa Giovanni, non ne parliamo manco, perché ripeteva questo, che noi insegnanti di teologia avremmo dovuto, per non distaccarci dalle formule sacre dell'insegnamento, proprio le formule magiche della teologia, avremmo dovuto ripetere in latino la teologia a quegli alunni. Noi incapaci, noi non autorizzati, dopo tutto un qualche timbro, anche se non un bastone l'avevamo anche noi, no? Di fare la traduzione per affidare poi ai nostri alunni la traduzione reale di quei testi. Ma questo è insensato. Questo era una concezione della rivelazione, questa era una concezione della Chiesa, questa era una concezione della teologia, che il Vaticano II ha messo in crisi, per fortuna, anzi ha licenziato definitivamente. Ecco, questa è la ragione per la quale poi tutto è accaduto, anche a livello di testi, di traduzione, certo con molto disordine. Io sono un appassionato, per quel poco, del latino ecclesiastico, io sono un appassionato del gregoriano, e non so quanti non tecnici ne siano appassionati quanto me, lo conoscono quanto me, ma io dichiaro, non abbiamo perso proprio nulla, perché io non ho mai sentito né quel latino né quel gregoriano in una maniera sensata e decente, non dico dignitosa ma decente. Forse lo si può sentire meglio ora. Allora si tratta certamente di mantenere vivo questo riferimento. Io proibirei a qualsiasi musicista di fare anche una frase, un amen, no, in musica, senza aver trattato per 30 anni almeno e la polifonia e il gregoriano, d'accordo su questo, ma non mitizziamo un passato o forse un tesoro che noi abbiamo, noi grazie a Dio alcuni abbiamo coltivato non soltanto nel cuore ma anche nella nostra vita, ma che non era un possesso reale della Chiesa. Ma soprattutto quella che è la mia preoccupazione è questa, che questa innovazione, che è la verità del rapporto con la rivelazione, con la fede, no? Che non sia misurata a partire appunto da quelle, anche da un certo disordine, da una certa scompostezza che è avvenuta oggi al diverso livello linguistico, letterario, musicale, liturgico, eccetera, eccetera, ma che, viva Dio, ci permette oggi, non dico ci garantisce, ma ci permette un rapporto molto più essenziale rispetto al quale tutte queste dimensioni in una visione di fede sono strumentali e non il fine. Ecco, questo io vorrei che si tenesse presente. È proprio la visione teologica di fondo che il Vaticano ha finalmente reso possibile e embrionalmente, non in maniera del tutto coerente, a volte anzi in maniera un pochino carica di tensioni, persino di contraddizioni, ha proposto ed aperto che questa è quello che va convalidato e va appreso, e a questa luce, ecco, va rivisto anche tutto questo disordine o caos che ne è nato. Poi per il professor Gugliarotti una cosa, perché ha detto cose molto belle, la voglio dire lo stesso. Mi scusi. Prego, prego, lo signore. Posso agganciarmi, sono pienamente d'accordo con questa osservazione, che si tratta veramente di nuove o antiche e autentiche intuizioni ecclesiologiche, che noi crediamo di possedere in modo fossilizzato e catalogato e che invece vanno rivedute. Ora, mi pare che sotto questo punto di vista, in ogni caso, è da rigettare semplicemente l'asserzione che la fede cristiana sia sposata con una determinata lingua che pertanto è sacrale, la sacralità del latino. Per piacere, proprio la svolta della secolarizzazione ci ha insegnato che la sacralità di questo tipo è già superata da Gesù Cristo. Tutt'al più, se lì c'era una certa sacralità dell'ebraico e nell'ambiente rabbinico ha una sua tradizione, certamente non vale per la fede cristiana quella, no? Quello sposalizio, neanche con la lingua ebraica. Come il cristianesimo ha desacralizzato da quella sacralità cosmologica, eccetera. Ora mi sembra invece un voluto ricadere in quel concetto di sacralità. Guardando la questione in dimensione storica, io non avrei nessun dubbio, tra i latini è nata e in modo molto fecondo una liturgia latina, quando tutti capivano il latino. Il grande diaframma è accaduto col passaggio, con la conservazione di quella lingua che comincia a sacralizzarsi nel senso che dicevo prima, con una popolazione che non capiva il latino. Conservando fossilizzata la stessa lingua, si è creata una situazione totalmente diversa, che da questa, già al momento della riforma, si sia sentito fortemente il bisogno di venirne fuori. Roma lo doveva capire meglio, a dire il vero, di quello che ha capito. In realtà il Concilio di Trento, che io difendo tante volte proprio perché non è stato così antiriformistico come tante volte si è detto, Il Concilio di Trento non ha fatto una questione di fede, ha fatto semplicemente un giudizio di opportunità nella situazione contingente, per molti equivoci, insomma, non è spedita, ha detto. E anzi, direi prescritto, che dovendo conservare per il momento questa situazione già sentita e dichiarata come difforme alla realtà, si cercasse di recuperare per vie trasverse, tramite commento liturgico, tante spiegazione delle cerimonie che la gente non, no, tramite tutta una esegesi, di recuperare quello che invece in questa situazione contingente veniva in qualche maniera bloccato. L'interessante è che nei decenni successivi l'applicazione del Concilio di Trento ha lasciato lettera morta, totalmente lettera morta, il suggerimento di recuperare, e invece ha sacralizzato quanto potuto la prescrizione non si tocchi la lingua latina, no? Io ho ricevuto di recente un libro molto interessante, forse difficile da reperire da noi, di quelle che sono state, quello che è stato il travaglio nell'illuminismo cattolico della Germania proprio riguardo al problema della lingua. Rileggendo adesso tutte quelle dispute e discussioni, non c'è dubbio da quale parte noi stiamo, quasi distinto. No, certamente non stiamo, si sente che già allora è più che matura l'esigenza, e c'erano anche uomini che l'hanno portata avanti anche con maniera, con buona fede, no? Io mi stupisco che il nostro Rosmini, che in altri punti ha senso della Chiesa locale, invece circa questo punto non si tocchi il latino. Poveretto, aveva già difficoltà abbastanza con certi centri romani, e del resto era anche lui dentro un'orbita fortemente ancorata nella restaurazione cattolica, per quanto Rosmini riprenda dell'illuminismo cattolico e quanto invece sia nel clima della restaurazione cattolica, questo è abbastanza indicativo, ecco, per questo fatto. Ma credo che proprio la relazione di Guggerotti ci ha aiutati a capire come in realtà autenticamente Chiesa si fa quando nasce questo tradursi del Vangelo in modo vivo, vero? Se la Chiesa latina, per un complesso di situazioni che non dobbiamo tutto giustificare, tutto vedere come ideale, tutto dogmatizzato, molti accidenti sono successi anche nella storia della Chiesa latina, e uno sforzo per giudicarli. Ora, che proprio intorno al Vaticano II questa possibilità di una riflessione più autentica, di un riconoscimento, insomma anche di urgenze che sono state per tanto tempo soffocate, finalmente si è liberato. Per conto mio questa è la causa storica per cui, pur con quei compromessi di formulazione che il Concilio ancora ha dovuto fare, ma a un certo punto la situazione insomma, ha travolto tutto. Però sono grato al padre Falsini, che ha dimostrato adunque, adesso i liturgisti si sforzano anche proprio di analizzare molto, punto per punto, caso per caso, decisioni vere dell'Episcopato e della Santa Sede a fronte di interpretazioni delle congregazioni romane, eccetera, che poi invece creano argini dove non erano stati creati. In realtà sono grato proprio dell'esposizione che è stata fatta, che mostra come qui non c'è stato niente di illegittimo, niente di strappo fatto per via di fatto. In realtà le cose sono procedute in un modo sommamente regolare, ecco, anche in questo non accetterei neanche come divulgazione, vero, che tante volte si dice, ma in realtà dopo magari in buona fede se la cosa è stata travolta, insomma, la decisione, no? Proprio in questo senso la relazione Falsini mi è piaciuta assai. Ecco, dopodiché avrei anch'io insomma, domande da fare circa quando si rivedrà la traduzione. Sottoscrivo alle osservazioni fatte. A me sta a cuore sommamente quella che riguarda le parole della consacrazione, come usualmente si dice. Dove e come si possa tradurre un testo che dalla riforma liturgica è stato riveduto apposta sull'originale biblico, hoc est enim corpus meum quod pro vobis tradetur, lo si possa tradurre offerto in sacrificio per voi, questo è una falsificazione filologicamente, cioè si inverte. E forse non è solo quel che ha detto, si inverte un discorso che è catabatico, è di discesa, è Dio che si dà agli uomini, se volete chiamarlo sacrificio, chiamatelo pure però, no? Ma è catabatico e lo si trasforma in un discorso che è anabatico, offerto in sacrificio, no? Dio dà il figlio suo, vabbè, se volete chiamarlo sacrificio, affar vostro. Certo c'è più che il sacrificio, lettera agli ebrei testante, no? Ma che arbitrariamente, dopo che la riforma liturgica ha veramente divinato questo, e che tutte le traduzioni al mondo rispettano questo, che lo si rovesci nel senso detto, ecco, questo io veramente non lo capisco. E un'altra cosa che non è stata detta, che non capisco, è molto più leggera se volete, perché se nel testo latino nuovo fatto apposta si dice beati qui a cenam agni vocati sunt, si debba tradurre in italiano beati gli invitati alla cena alla mensa del Signore, beati gli invitati alla mensa del Signore. Il testo dice qui a cenam agni vocati sunt, e il tedesco, i tedeschi che vedono meno agnelli di noi, pure zum Hochzeitsmahl des Lammes, insomma, l'hanno mantenuto l'agnello comunque, no? Ecco, anche quello andrebbe aggiunto forse. Sì, noi si parla di cena del Signore, però è stato eliminato il riferimento alla cena dell'agnello, cena nuziale dell'agnello. Quindi abbiamo identificato nel momento rituale quello invece che ha una dimensione scatologica, il riferimento tra la mensa eucaristica e la mensa celeste. E si è perso il concetto nuziale e il concetto escatologico. Sì, questo è vero, sì. Ma è anche quello. Sì, ma il problema è di far sentire questa voce, sa, perché se uno l'ascolta, noi parliamo, ma però comunque è sempre utile questo confronto. Io ringrazio. Ecco, lei ha già. Io già tenuto, così non dopo la replica finale, possiamo passare alla seconda relazione. Se credo. Ah, no, prego. Non tanto sulla, diciamo così, impostazione dei relatori, non posso non tener conto della loro impostazione, però io vorrei fare una breve osservazione in questo senso. A mio avviso i traduttori rivelano due esigenze nel modo con il quale traducono, cioè quello della fedeltà alla parola che sarebbe stata o che è stata acquisita attraverso il passato, e renderla credibile all'uomo moderno. Cioè lo sforzo dei traduttori, almeno mi pare nel travaglio dal primo concilio al secondo concilio, quello attuale, è quello di dover fare l'anatomia del pensiero, della parola già detta, perché sia credibile all'uomo moderno. Il quale uomo moderno ha acquisito un concetto che la Bibbia non poteva avere, che è il concetto dell'evoluzione biologica. Io mi sono preso un libro di quello scienziato che fu Isaac Asimov, in altro campo, che il quale ebbe l'ardire di scrivere un commento alla Bibbia, un commento visto da cercando di conciliare, cioè di dire questo è valido e questo non è più valido oggi, con tutto il rispetto che lui aveva. Peraltro l'Asimov si riferiva alla Bibbia secondo la Bibbia di Re Giacomo. Nel 1611 Giacomo d'Inghilterra incaricò 54 dotti di redigere una traduzione della Bibbia per i protestanti di lingua inglese. Lui si attiene a questa. Ecco, io dico, capisco, cioè, mi rendo conto, personalmente direi che la traduzione dovrebbe essere iscritta nell'esigenza della ricerca della verità, cioè di quelle che furono le vere, uniche parole che il Creatore, 2000, 3000, 4000, 5000 anni fa, disse a quel popolo, che le poteva capire solo in quel modo. Però oggi noi viviamo nel 2000 e viviamo in un'epoca in cui si mette in dubbio, cioè si mette in dubbio, l'uomo è concorrente alla creazione e quindi sa di essere, di poter modificare, di poter competere con la divinità. Ecco, e io credo che dovremmo tenere, che forse i traduttori, quelli che si discostano da quella che può essere l'interpretazione letterale, che ha una sua validità, però non, in tutte le cose non bisognerebbe mai dare un'interpretazione letterale, quanto ricercare, come ricercano i giuristi, per esempio, la ratio, la vis ac potestas, come la chiamano, della norma, non soltanto la sua letteralità, ma quello che giustifica. Per cui, quando si parla di analogia, si dice ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio. Per cui si dovrebbe dire, come allora vi fu un cur, una ratio, quale è il cur oggi, alla luce della evoluzione biologica e di quelle conoscenze che la Bibbia non poteva avere. Pongo questi quesiti chiedendo scusa se sono andato fuori. Ecco, possiamo considerare chiuso il dibattito, che è stato molto vivace sulla prima relazione. Anche tu. Scusate, io anticipo. Una cosa minima. Quando, cioè, la maggior parte di voi sa che io purtroppo insegno ancora al liceo e quindi. La maggior parte di voi sa che io purtroppo insegno ancora al liceo, quindi ho pacchi e pacchi di compiti da correggere, anche di latino. Ecco, mi sono ormai mitigatizzato all'errore, quindi ho una visione molto distaccata. Ecco, però io trovo estremamente irritante che quando ci si è messi a tradurre l'ordinario della messa, non siano stati fatti sparire questi errori, perché che gli uomini di buona volontà siano una traduzione sbagliata, lo si sa da sempre, lo sanno anche i muri, capito? Ecco, c'è dappertutto, c'è nei prontuari, cioè non ecco. E allora? Ecco, una cosa, no? Ecco, io esprimo questo concetto, no? Proprio che perlomeno eliminare gli errori, ecco, fare una traduzione scorrevole come vuoi, ecco, ma eliminare gli errori e fare una scelta teologica precisa, non so se vuoi un testo in chiave spiritualistico o in chiave, capito, in chiave letterario, ecco, perlomeno si poteva anche fare, forse si potrà farlo in futuro una cosa di questo genere. Ecco, io mi irrito molto quando l'errore di traduzione può essere errore tu curo, può essere errore con le virgolette, lo stesso, quando l'errore lo si vuole a tutti i costi mantenere o perpetuare. Io qui si posso aggiungere, sì. Se queste richieste vengono avanzate soltanto in una sede come la nostra, a livello così di discussione, e non arrivano a chi ha la responsabilità, certo, di cambiare, non si offre nulla. Io ho lavorato nel gruppo anche dell'edizione dell'83, e feci presente anche al responsabile, al delegato, mi disse: i vescovi hanno deciso di non toccare nulla per quello che riguarda le risposte dei fedeli del popolo cristiano, altrimenti si scandalizzano, non dobbiamo disturbare il popolo cristiano, continui come d'oggi. Ma dico, ma gli scandali sono di altro genere, non credo che si meraviglia, cioè non per non creare reazioni, suscettibilità, eccetera, quindi avete sbagliato. E allora hanno voluto lasciare immutato. E quella era l'occasione privilegiata, perché si faceva la nuova edizione con delle aggiunte, e l'unica soluzione è stata quella di inserire dei testi di ricambio, almeno dei saluti, così la messa è finita, continua come prima. E mentre quello del Gloria, del Padre Nostro, lì non è stato possibile. E credo che sia ben difficile procedere a una revisione in momento attuale, finché non si arriverà a una nuova edizione del messaggio. Comunque. Pensavo che ci sia comunque una naturale transizione dalla discussione sulla prima relazione a quella sulla seconda, perché anche il professor Menestrina aveva segnalato casi precisi in cui non c'era fedeltà al testo, anzi c'erano degli errori. Ecco, possiamo aprire la discussione sulla seconda relazione, se c'è qualcuno che intende iscriversi. Di consenso. Posso pure parlare? Ah sì, no, nel caso... Buggerotti. Sì, è la sua. No, un attimo, c'è ancora... Sì. Questa è la terza. No, se posso dire io una cosa, mi ha convinto molto, a proposito di Matteo 6,9, agiasceto to onomasu, cioè il nome, perché... C'è il problema dei nomi dei sostituti del nome divino del Tetragrammo. Sì. No, perché io ho dimestichezza con un testo che è il testo del pastore di Erma, che ha molti elementi giudaico-cristiani, e in alcuni casi c'è proprio la lode al nome, toonoma, e in alcuni rami della tradizione manoscritta si è voluto in qualche modo cristianizzare il testo e si è messo toonomasu, ecco. Qui certamente su ci deve essere, come poi Basileia, su, Zelema, su, però l'origine è quella del nome, l'onoma, il nome. Anche il nome è nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito, è questo onoma, anche lì è nel, il nome è lo stesso. Ma proprio il nome per se stesso, non il nome con specificazioni, ecco. C'è una analisi di identificazione con la persona. Sì. Quindi che nel nome è rappresentante a tutti gli effetti. Equivalente di Dio, insomma, equivalente. Sì. Senso proprio. Questo gioco, no? Il nome, c'è il luogo dove abita la persona, quella persona. Il nome, il regno, che è di nuovo il luogo. Anche la traduzione. Si combinano, gloria, regno angelico e parte si combinano. C'è un'unità linguistica anche da un Vangelo all'altro, certo, che è dettata dalla fonte Q in questo caso. No, poi c'era stato, mi pare già, c'era stato un contributo negli intervalli della signorina Pisana a proposito del perieuches di origine. Non ci sono altri che intendono porre domande o chiedere spiegazioni, dare contributi? No, quindi possiamo passare alla relazione del professor Guggerotti. C'è già una preiscrizione del professor Boff. Prego. Sì, ecco, prego. Allora potrei aggiungere che la questione del nome dipende anche dal fatto che Hashem, il nome, molte volte è semplicemente collocato là al posto dove c'è il tetragramma, che non deve essere pronunciato. Una delle formule per dirlo è proprio il nome. Ah, il nome, appunto. Il nome, Hashem, oppure anche il luogo, Hashem, Hamakom, ma quello è proprio, o Adonai nella lettura liturgica. Il nome del padre, del figlio, anche la stessa cosa. Esatto, ma quindi nell'uso del nome, nell'uso neotestamentale del nome, ci sono anche queste valenze, questo regime, ma questo non è il tema. Invece al professor Guggerotti voglio dire questo, anzitutto che mi ha entusiasmato, a parte la bellissima relazione, proprio in genere, ma proprio, no, davvero, era già la seconda che la sento molto bella, proprio. Mi ha entusiasmato quell'analisi fine che ha fatto della attualizzazione, no, del messaggio proprio nella forma dell'alfabeto, che sarà in quei testi, ma in quei testi è trovata da chi ha una sensibilità teologica molto precisa, altrimenti io credo che sia una lettura abbastanza recente questa, non può essere una lettura di molto tempo, di questo proprio gliene rendo tutto il merito, mi piace molto. L'altro aspetto è quello sul quale voglio fare la domanda, l'altro aspetto di questa medesima realtà è quello di un possibile fondamentalismo terribile, vale a dire che questa valenza incarnatoria, no, dell'alfabeto non sia tradotta in una cattiva lettura della rivelazione dentro quella grammatica, dentro quell'alfabeto, dentro quella forma storica, dentro quella cultura. Ecco, questo è il punto, che è l'origine, io credo, di tutti i fondamentalismi. E ora la domanda ultima e precisa è questa. Proprio in quella esposizione missionaria alla quale è stato fatto cenno positivo, si rivela una capacità proprio di riconoscere la necessità che altri luoghi, altri popoli abbiano lo stesso diritto, necessità, dovere per poter davvero entrare in questo armonioso concentro di voci, no? Che tutte dicono la stessa rivelazione, di dire la loro traduzione, di esprimere, oppure è una missionarizzazione colonizzatrice, che sarebbe in fondo la negazione di quelle valenze positive che sono state così eccellentemente messe in luce. Grazie. Prego. Subito professore, accogliamo. Se lei preferisce potrebbe raccogliere. Dunque, professore, qui il pericolo c'è. Il pericolo c'è. E io lo vedo nel fatto che è poi alla base di molti dei nazionalismi persistenti, una lettura parziale di questo crea una tendenza. Nel mio testo poi c'è una, proprio una specie di sferzata contro questo aspetto che non ho letto. Devo dire però che nel testo la cosa è un tantino più primitiva. Non so se il testo i tre testi risponderebbero bene a questa sua domanda, che forse non capirebbero nemmeno approfonditamente. I testi risponderebbero, per quello che io conosco, così. E quando questi Vartabet, in particolare, a parte il fatto che ci siano andati o meno negli altri popoli, perché è tutto da dimostrare, anzi, qui c'è un georgiano che è convinto del contrario, ma a parte il fatto che siano andati o meno, quello che conta è che danno un alfabeto diverso a ciascun popolo. Cioè, si fermano, danno, si dice che diano, ecco, un alfabeto diverso per ciascuno, non il proprio agli altri. Si fermano, studiano, impostano la cosa, fanno le loro sperimentazioni, incontrano e dice, facendo di questi popoli che avevano una cultura a quel momento così barbara, eccetera, un popolo così significativo, da farne, come dicevo, dei conoscitori degli apostoli, eccetera, eccetera, e mettendo uno dei loro vescovi come responsabile di quella chiesa, secondo la propria tradizione e cultura. Quindi in parte c'è. Il secondo punto è che, secondo l'autore, la civiltà cristiana è unica poi alla fine, che parla le varie lingue, e questo non lo dice esplicitamente, ma lo dice quando cita Mosè. Dice, in fin dei conti, già da allora, ma poi ancora, Dio avrebbe detto, Cristo avrebbe detto, andate e predicate in tutto l'universo. E quindi l'intuizione che ne deriva è che la riga sotto è, quindi anche i nostri dottori furono autorizzati a. Allora il punto di partenza è la predicazione a tutti. C'è un'unità in Cristo e nei suoi precetti, quindi anche i nostri dottori furono autorizzati ad appropriarla per la propria cultura. Quindi un certo antidoto a questa visione c'è, per queste due ragioni. Che poi storicamente la visione si sia tendenzialmente ristretta ed abbia potuto portare ad una forma un po' asfittica di nazionalismo, questo è certamente vero. Ci sono altre domande? Non vedo iscrizioni a parlare. Tutti esausti. Ma appunto possiamo fare nostra, il giudizio del professor Quacquarelli, che evidentemente si esprime il consenso pieno per la relazione del professor Guggerotti. Quindi possiamo, credo, considerare chiusi i lavori della prima giornata del convegno, esprimendo la soddisfazione per le molte belle relazioni sull'articolo.